svegliandomi ho realizzato che tutto il resto è stupido. Voglio provare a vivere, che ci sia luce oppure sia oscurità. Cammino come un uomo e parlo come un uomo. E in mezzo a tutta questa casualità, cosa potevi fare? Cosa potevi avere? Potevi mai capire? Poteva mai finire? Se io fossi il giudice, mi inginocchierei e darei il tuo nome a ogni preghiera che riconoscerei. In mezzo a tutta questa casualità, chi scappa chiede pietra, chi si converte a Dio, chi spiega le ali e vola via. Di abbracciare il mondo, il modo che ho di soffrire fino in fondo, libero di non essere più me, libero di non piacerti più, libero di buttare tutto via. Svegliandomi ho realizzato che tutto il resto è stupido. Voglio provare a vivere. Se io fossi il giudice, mi inginocchierei. Non ti farei domande, non chiederei perché. Ho smesso di nascondermi, mi riconoscerai. Cammino come un uomo e parlo come un uomo e non ho ali e volo via. Ognuno ha un modo di abbracciare il mondo, il modo che ho di soffrire fino in fondo, libero di non essere più me, libero di non piacerti più, libero di buttare tutto via. Oggi svegliandomi credevo fossi tu che mi dicevi stupido, devi tornare a vivere.